abbiamo iniziato ieri la parte sul feticismo, cioè già l'altro giorno abbiamo iniziato la parte sulla metropoli. E abbiamo analizzato anche questa pubblicità che è stata all'inizio un po' impegnante, un po' minacciosa, come infrazione. Anche questo corso per cui ci saremo in seguito. Abbiamo visto le fasi di questa sezione monografica sui feticismi, lo stupore della pubblicità, la metropoli, abbiamo già visto, poi scritto, Walter e Tempi, Campani. Ecco, forse se una breve riflessione, la musica di ieri e le immagini in qualche modo hanno tentato di esprimere i concetti sensoriali. Se non so se avete fatto la riflessione su questo, l'idea era di mostrarvi, di farvi sentire una musica di Philip Glass che è stato influenzato dalla musica canadese, quindi quando avete sentito quelle variazioni, la musica di molti anni fa, sarà non so, 15 anni fa, questo è tutto. Quando avete sentito tutte quelle variazioni espresse specialmente dal piano, è una traduzione in termini occidentali, anzi newyorkesi, del minimalismo cosiddetto, questa dimensione ipnotica, queste variazioni minime che i balinesi fanno nella loro musica. Quindi c'era la prima cosa, il primo elemento questo, il secondo elemento il concetto di changing opinion, che abbiamo visto è un bel concetto da vivere all'interno dell'università. C'era avuto una serie di metafore del testo scritto in cui questo mormorio che attraversa una stanza non si capisce cosa sia, perché dipende, alla fine si capisce che l'ipotesi è un invito a cambiare opinione. Cos'è il secondo livello? Il terzo livello a me è venuto veramente lì, non è che ci avessi pensato prima, l'idea di invece di solamente ascoltare e abbinare l'ascolto con delle immagini. E allora vi ho mostrato una mia riflessione su Dante Lynch, perché Dante Lynch a mio avviso è veramente uno lui è un musicista. Quindi la prima, una delle prime immagini di ieri, se ricordate, lui suona chitarra, molte delle musiche dei suoi film sono fatte direttamente da lui, anche fotografo. A Roma, a San Lorenzo, c'è una mostra di ancora moltissimo che vorrò andare a vedere, mi farebbe piacere perché qualcuno di voi andasse a vederla, una mostra delle sue fotografie tratte proprio dall'ultimo film, Il Madre Fire, le cui immagini erano nel film. E lì, in questa mix di Lynch, c'erano dei elementi anche alla pittura, per esempio a Hopper, e sono invece una relazione molto stretta tra questo pittore, questo bravissimo pittore statunitense, proprio per il tipo di immagini che Lynch realizza. Quindi un invito che vi faccio, Mulholland Drive, se non avete visto, vedetelo, perché è importante per la vostra formazione, è un film che tratta giustamente, propriamente, la questione della comunicazione, del cinema in particolare, non solo del cinema, della musica e dell'identità. Ci sono diversi elementi che fanno parte stretta del tipo di antropologia che la svolta, quindi se non avete visto vi consiglio di vedere Mulholland Drive. Quindi in qualche modo è stata una presentazione per concetti sensoriali, musiche, testi musicali, testi di immagini, eccetera. La matrice del feticcio, quella coloniale, quella alienata e quella perversa. Abbiamo visto una breve riflessione su questi tratti, sull'interrogazione perché il codice pare trasformare in cinghia seduta. E qui abbiamo iniziato la parte sulla dimensione coloniale, il feticcio, cosiddetto feticcio, la rappresentanza della visione sacra, abbiamo utilizzato più il concetto di sacro che di religione. Poi abbiamo iniziano a portare Marx, corpo della merce, concetto di estraneazione, emersione, perché questo concetto di Marx, che la merce sia una cosa sensibilmente sovrasensibile, anticipa in qualche modo quello che noi intendiamo attualmente per materiale immateriale, cioè quelli produttivi della contemporaneità. Abbiamo visto anche i limiti di Marx sulla teoria del valore, poi sono aspetti che affronteremo successivamente, ma fondamentalmente Marx non coglie, non può cogliere d'altronde, che la merce prodotta dal lavoro nella fabbrica, appunto produce, come afferma, estraneazione, ma la stessa merce esposta in un'esposizione universale attira, favorisce l'immedesimazione, quindi una componente che moltiplica la potenzialità della merce. E allora Freud in parte ci può aiutare a sviluppare questa ulteriore parte, la terza parte. Non si vede che giallo è giallo. Distinzione che possiamo fare, che probabilmente ci dovrebbe mettiamo d'accordo, è la sessualità si riferisce in genere centralmente agli organi genitali. Il riferimento della sessualità è agli organi genitali, almeno a livello centrale. L'erotismo no. L'erotismo non ha come suo ambito specifico può averlo, ma può anche non avere la dimensione genitale come ambito specifico di attrazione e di desiderio. Partendo da questa premessa, la sessualità genitale dell'erotismo è polimorfo, concede il termine polimorfo. Polimorfo, Freud vuol dire che vi è una estensione, appunto polimorfa, di tante forme del desiderio. Desiderio nell'erotismo è polimorfo. E questo soggetto feticista, cioè questo maschio attratto dal feticcio, dalla cosa feticista, ha questa appunto attrazione. Vi è una cosa nel corpo della donna che è l'oggetto, tra virgolette, oggetto sempre, perché una volta che parliamo di feticismo, l'oggetto non è mai solamente un oggetto, io spero che questo vi sia chiaro, no? Nel feticismo nulla è mai semplicemente un oggetto, ma l'oggetto si incrocia in modo spesso difficilmente dividibile dalla soggettività. Allora, diciamo, nel corpo della donna ci sono alcuni oggetti che danno il senso profondo di questa, di questo feticismo, di questa attrazione feticista. Ci sono anche altre parti del corpo che sono feticiste, che non sono semplicemente oggetti, però iniziamo dalla parte più semplice, che attualmente, tra l'altro, sta avendo un crescente interesse, per esempio la tesi, una tesi fatta da un'ottima studentessa che si laureerà proprio tra qualche giorno, sarà proprio su una scarpa, sul carattere feticcio della scarpa. La scarpa ha una grossissima componente feticista, in particolare sto parlando delle scarpe femminile, e della scarpa femminile la scarpa rossa con il tacco. Quindi non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere la mia vecchia barriera che sta più moderna, di fronte ai bagni, diciamo, entrando a sinistra. Io prima avevo la stanza lì a piano terra e dei miei studenti, quando io avevo iniziato a fare queste ricerche, veramente era un momento molto iniziale, quindi i miei studenti presero una scarpa rossa, la tagliarono a metà e me la attaccarono nella barriera. E in molti continuano a fare riferimento a questa barriera che dà il senso, ecco, di questa ricerca, e qui se ti va bisogna andare a vedere, perché ci dobbiamo fare delle cose, queste barriere, come sapete, ma non servono più. Le informazioni le avete online. Bene, allora, questa scarpa rossa, questa scarpa con il tacco alto, dalla forma particolare, esercita un'attrazione forte nel feticista, totalmente erotica. E questo erotismo della scarpa rossa con il tacco alto e lungo è basato sul feticismo in questo senso. La scarpa sta a contatto con il piede della donna anche amata, la donna, non solamente una donna generale, ma anche una donna amata, profondamente amata, la scarpa sta a contatto con questo, con il piede, e quindi sta a contatto con l'intero corpo della donna. Solo che per il feticista l'intero corpo della donna sta nella scarpa. L'intero corpo della donna sta nella scarpa. E in questo senso la scarpa riesce a riassumere e probabilmente anche a esaltare un erotismo sconfinato. È come se il corpo, quindi la metà, diciamo, se avete seguito anche un'altra lezione che abbiamo fatto, la scarpa dal punto di vista, diciamo, semiotico e comunicazionale è una figura metonimica. La scarpa sta per il tutto, è come se l'intero corpo, è un asimmetro che non avrete studiato, è come se l'intero invitato ed eccitabile all'interno di questa scarpa, per cui al feticista interessa avere un rapporto erotico con la scarpa, perché questo rapporto erotico è di gran lunga più eccitante della donna. Quindi il corpo della donna non ha interesse per il feticista, ovvero che il corpo della donna ha interesse nella misura in cui questo corpo viene richiuso, come dicevo prima, viene espresso, viene concentrato nella scarpa. Quindi è possibile sostenere che la scarpa è questo concentrato di corpo di donna in cui la dimensione erotica favorisce un'eccitazione di gran lunga più forte dello stesso corpo della donna. Per cui il corpo della donna al feticista non interessa, quello che interessa è avere un rapporto con la scarpa. Avere la scarpa significa entrare dentro questo rapporto con la donna. Già in questa dimensione, io spero che sia chiaro, quindi questa scarpa è feticcio perché non solo perché è sacro, non solo perché è merce, è anche sacra questo tipo di scarpa, perché feticcio è anche una merce naturalmente, ma accanto a queste dimensioni sacrali e mercificate si espande l'erotica. L'erotica si espande e penetra dentro la cosa, la merce e anche il sacro, e trasforma l'oggetto scarpa in soggetto. Body scape, come concetto che abbiamo visto abbastanza esperti del corpo femminile, sono sempre dentro questo tipo di ragionamento di Freud, per esempio, l'esempio naturalmente i capelli, o i denti, sono alcune parti del corpo femminile, per esempio i capelli, no, che possono avere questa potente dimensione fascista, perché avere, attenzione a questo, perché avere o possedere anche di nascosto una parte dei capelli della donna madre significa poter agire sulla donna madre. Questa è una roba leggermente diversa. Quindi Freud capisce, definisce perversione, veramente Freud usa il termine perversione, però il concetto di perversione in Freud, però, insomma, dovete tenere presente che non ha un giudizio morale. Non ha un giudizio morale, è perversa nel senso che non è verso la normalità sessuale genitale, ma è verso un'altra direzione. Per questo è una perversione, non entra dentro quella che è la normalità della sessualità. Tra l'altro la questione del piede, il rapporto tra scarpe e piede ha tutta una serie di significati simbolici a livello dell'erotica che in diverse culture, tutte quella cinese, afferma appunto che nel piede, non solo nella scarpa, ma nel piede anche in quanto tale è una zona, diciamo, di una relazione fetichista. Perché vedete, questa è una frase di Freud, il sostituto per l'oggetto sessuale è una parte del corpo che non è appropriata per gli scopi sessuali, quindi avere una scarpa, un oggetto sessuale, che sia in evidente relazione con la persona. E questo è fondamentale. È fondamentale che questo oggetto debba essere stato in contatto con una parte del corpo della donna madre. Una volta stabilito il contatto, il feticista sente che il contatto rimane quindi appiccicato alla cosa. Il contatto rimane appiccicato e la dimensione carnale, carnosa, calorosa, si coagula, come dicevo prima, nella, per cui vedete, bestiame, biancheria, per esempio. E qui vediamo un altro punto di Freud, un secondo punto, mi pare ce ne saranno 3-4, insomma, problematici. Il secondo punto di Freud, nella frase finale, sì, che lo so, l'uomo, in base a questi oggetti, subisce la stessa influenza in quanto un uomo oppure è soggetto in sé che, avendo la sua personalità, e agisce a questi oggetti che esprimono che esiste? No, non che domanda. L'uomo in quanto, l'uomo stabilisce un rapporto erotico e anche sessuale con un oggetto che sta a contatto con il corpo della donna amata e che questo oggetto diventa di gran lunga più eccitante del corpo stesso della donna. Anche è il corpo della donna. La domanda è, l'uomo è liberale o femminista o alcuni... Ah, questa è un'altra domanda di Freud, è femminista. Componenti femministe forse ci sono. Però la domanda di Freud è che l'uomo femminista e la donna non è sbagliata. Quindi partiamo da un punto di vista diverso. A mio avviso, se poi mi anticipo una mia riflessione, la comunicazione visuale attuale si espande in una maniera in cui proliferano i feticismi visuali. E la proliferazione dei feticismi visuali in qualche modo coinvolge uomini, donne o i generi più variegati, a prescindere dalla propria, dal proprio carattere, diciamo, si feticista. Non è più necessario essere perversamente dei feticisti per essere dentro la comunicazione feticista, perché come poi dimostrò anche successivamente, infatti già vi ho mostrato alcune immagini, sembra quasi che non ci sia una trama comunicazionale, visuale, contemporanea che abbia a che fare con delle nuove forme di feticismo. Quindi in qualche modo tutti ne diciamo in modo differenziato. Prego. Basta che sa che è stato a contatto. cioè deve essere stato a contatto o in sua presenza o con delle immagini, può essere anche sufficiente. Lei? No, lui sa che, no, sa che è sua e la vista, no, può essere anche più passionale e fedele innamorato di questa donna, però il suo amore si manifesta in chiave di amicizia, credo non si manifesta in chiave generale. Questa è l'erotica del feticista in senso stretto. Poi, diciamo sì, all'interno di questa concezione freudiana dell'epoca ci sono tutta una serie di variazioni che possono essere anche facilmente immaginate, però diciamo la dimensione strettamente feticista, il feticista è quello che adora nella scarpa, prendiamo sempre l'esempio, l'intera corporella femminile, che però lui deve aver visto a contatto della donna madre. Allora, qui per questo ho messo due immagini, le due immagini che stanno qui, una si riferisce a una dimensione, diciamo così, una problematicità dell'esclusione della donna nell'analisi di Freud, e l'altra su una figura, diciamo, dell'abitante della Nuova Guinea, perché Felicio, nel quale il selvaggio vede il suo dio, questa frase di Freud è molto problematica. È molto problematica e però per noi è interessante, cioè che dobbiamo capire che Freud scrive il saggio, mi pare che sta diventando immagino. Ah, scusate, avevo convinto che ci fosse una parte che l'ho dimenticata, la aggiungerò per domani. Questo saggio, questa citazione, è tratta da un libro molto importante di Freud, un saggio che si chiama Il Perturbante. Il Perturbante, saggio bellissimo. Il Perturbante è un tentativo di tradurre una parola tedesca. Abbiamo dei studenti tedeschi oggi? Ci sono dei studenti tedeschi? La parola tedesca è Unheimlich. Unheimlich. Unheimlich è una parola che lo stesso Freud trova difficoltà a tradurre nelle altre lingue, che vorrebbe dire anche straniero, non familiare. Unheimlich, Heimlich vuol dire familiare, un è negativo, quindi non familiare. Il termine, la traduzione italiana, e in questo caso è veramente ottima, veramente eccellente, perché perturbante è quella cosa, per esempio una scarpa, che è totalmente straniera, totalmente diversa, come si possa immaginare, aliena, e che processualmente e anche direi drammaticamente si scopre che è la cosa più familiare. Per cui un Heimlich, pur essendo il non familiare, anche in tedesco, dice Freud, ha questa ambiguità per cui vuol dire sia non familiare che familiare. E lui che ha fatto, ha applicato in Freud questo concetto a un racconto di cui magari parleremo anche più in dettaglio in altri giorni, che è un racconto bellissimo, che dovreste conoscere tutti, che si chiama L'uomo di sabbia, l'uomo Sandman, l'uomo sabbia, l'uomo di sabbia, racconto di Hoffman, grande scrittore tedesco che scrive dopo le guerre napoleoniche, questo libro straordinario, un libro di racconto breve, molto breve, fantastico. A mio avviso in questo racconto c'è molto più senso della contemporaneità della letteratura realistica, quella sociale realistica, in Balzac, che è più o meno contemporaneo. Quindi analizza, adesso non abbiamo detto questo racconto, però cerca di capire all'interno, partendo da un racconto, anche questo significativo, analizzando un'opera letteraria, Freud Freud elabora questo concetto di un tsunami di perturbante e che è connesso questo perturbante a, nel caso specifico del racconto, a una bambola. Lo vedrete anche nel libro, nella sua tragedia, una bambola olimpia, questa bambola che pur essendo appunto una bambola, quindi una cosa di legno, di fatto esprime il massimo livello di erotica del soggetto del racconto. Quindi la bambola è questa bambola seduttiva, questa Olimpia, è questo feticcio, dicevo, no? Che unisce il soggettivo e l'oggettivo e che è straordinariamente perturbante. Che questa perturbazione fa sì che Freud, analizzando questo racconto, affermi che il concetto di feticcio è quello ancora coloniale. E vedete, qui siamo una cosa che non è andato molto da riflettere, perché Freud è uno dei punti di vista più alti di una razionalità occidentale, che però mette in discussione questa stessa razionalità. Freud vede benissimo come la pulsione è qualcosa che non riesce a inquadrarsi dentro la civiltà, perché la civiltà c'è un fatto suo bellissimo, che anche questo per pensare che a volte vi rompo le scatole, insomma, il disagio della civiltà è un altro testo fondamentale del pensiero occidentale. Il disagio della civiltà, un libro che Freud scrisse drammaticamente, pessimisticamente, quando era chiaro che ormai la guerra, la seconda guerra mondiale, la persecuzione verso gli ebrei stava diventando una pratica accettata anche non solamente dai governi ma anche da strati della popolazione. Beh, in questo momento Freud dice che nella civiltà c'è un disagio, e questo disagio che rende la città sempre sull'orlo come un abisso, è il destino della pulsione. Il destino della pulsione. La pulsione cerca di raggiungere il suo scopo, la pulsione non conosce limiti, non conosce censure, conosce semplicemente la volontà intrinseca, no, del proprio soddisfacimento. E questa pulsione che cerca questo, se costantemente raggiunge il suo obiettivo, non si produce cultura, dice poi. Nella cultura, il disagio della cultura è che la cultura è prodotta deviando l'energia della pulsione. La carica, la forza della pulsione, anziché raggiungere il suo scopo, viene deviata. Però vediamo questo sublimazione. La sublimazione è una deviazione della pulsione che non raggiunge appunto il suo obiettivo e produce cultura. Allora, per Freud, ogni prodotto culturale, non so se è detto questo aspetto drammatico che Freud capisce, ogni prodotto culturale ha dentro una ferita, perché è il prodotto di una repressione. Non c'è cultura senza repressione. Questo è. Non c'è cultura senza repressione, perché della cultura e della produzione culturale la sublimazione non può che essere deviazione, incaramento verso qualcosa di altro, e questo altro è la cultura. Questo è il disagio, e questo spinge, dice Freud, questo disagio della civiltà sempre sull'orlo di un abisso. È come se questa produzione culturale rischiasse costantemente di dissolversi, di distruggersi. Perché è come se costantemente il grido, per così dire, della pulsione distruggesse, potesse distruggere la produzione culturale. La produzione culturale è la sublimazione della pulsione. Per fare il concetto di cultura, in tedesco di Italia è proprio il disagio della civiltà. Civiltà in tedesco, nel Freud si chiama Kultur. Cultura in tedesco vuol dire generalmente la cultura nel suo significato reale filosofico, non civilizzazione, che è una cultura tecnica. Quindi all'interno di questa sottile distinzione, la cultura nel suo significato più linguaggio letterario, filosofico, l'arte, la filosofia, la letteratura, ha come matrice la repressione. Per cui questa matrice, questa cicatrice, questa ferita, per Freud può continuare in ogni momento a sanguinare di nuovo. Cioè non è data una volta per tutte. Non è che la civiltà si è basata sul disagio e siamo a posto. Non solamente ogni generazione, ma ogni singola persona sperimenta sul proprio corpo questo disagio. Per cui quando tornate a casa, se studiate per i libri, state dentro questo disagio. Se vado a casa e comincio a lavorare, sto dentro questo disagio. È un disagio che sta dentro questa visione drammatica e che diversi autori veramente hanno cercato di risolvere in un modo diverso da quello di Freud, meno pessimista. Non so se conoscete il più famoso, il Marcuse. Se avete conosciuto Marcuse, ha tentato di elaborare un progetto dentro il quale la sublimazione incodesse l'erotica. Questo cercava Marcuse, cercava una dimensione in cui la produzione culturale fosse formata da una sublimazione che includesse e non escludesse la dimensione dell'erotica. Questo naturalmente vi offre una riflessione: se, chi, come, quando è possibile produrre un atto culturale con una sublimazione non reversiva. Questo è l'intendere. Produrre cultura con una sublimazione non repressiva. È possibile? Questo è un'altra apertura che negli anni 60 accese nuovamente i dibattiti, ma certamente diciamo sì, le conclusioni su questi temi sono veramente assurde e ogni volta, come dicevo, ciascuna persona, ciascun soggetto deve sperimentare di nuovo il suo rapporto con la cultura, con la sublimazione, con gli istinti e con i propri desideri. Non è che c'è una regola da una volta per tutti, per questo ciascuno di voi dovrà trovare in qualche modo la sua propria strada. Allora, all'interno diciamo, di questa visione, di questa riflessione su Freud, la funzione, gli istinti, il disagio della sublimazione, vi dicevo Freud, questa diciamo, variazione determinata perché Freud è veramente un caposaldo della cultura occidentale, no? È un punto di riferimento, non si può non affrontare Freud, come si dice, no? Non si può non affrontare. Ma proprio perché non si può non affrontare, noi abbiamo anche questi limiti. Ora, i limiti di Freud, il primo caso del limite è probabilmente un certo tipo di sessismo, diciamo così, no? L'uomo è feticista donna, ma tra virgolette, perché bisogna essere molto prudenti con Freud. Ma qui sicuramente lui ha un limite antropologico, sicuramente qui è eurocentrico. Ed è un peccato, Freud conosce moltissimo la bibliografia della sua epoca. Freud ama le mitologie. Il famoso studio che lui ha, che adesso è un museo a Vienna, ci sono molte statue che vengono dall'Egitto, dalla Grecia, da Roma, che insegna. Tra l'altro, scusate la relazione, perché parlo di Roma, sapete che Freud scrive in suo breve cenno che è stato camminare per Roma e gli ha fatto elaborare la teoria dell'io, dell'essere e del superio. Sapete, camminando per Roma, Freud vede che Roma è stratificata, che ci sono almeno tre livelli di Roma, no? C'è il livello stradale, per così dire, poi c'è il livello più monumentale e c'è il livello delle rovine sottoterra. Ecco, questi tre livelli sono l'Est, che è quello sottoterra, l'Io, che è quello almeno stradale, e il monumento che è superiore. Per cui vedete come la città molto spesso, questa poi è la mia fissa, come si dice, per me la città spesso è il contesto dentro il quale si elaborano teorie. La città offre, anche troppo, e ancora meglio, offre il contesto per sperimentare nuove teorie. Però è chiarissimo che segna in questa direzione. No? Roma, stratificata, gli offre Bene, detto tutto questo, lui permette lo scelto. Qui vedete, lui dice ancora il selvaggio vede il suo Dio, riprende il concetto di feticcio del colonialismo. È come se Freud, la fonte di riflessione sul feticismo fosse ancora quella coloniale. Quindi il feticcio è il feticcio coloniale, selvaggio, usa il termine selvaggio, che già all'epoca avrebbe potuto risparmiarsi, cioè poteva usare un termine diverso, però usa il termine selvaggio e dice che appunto il feticcio vede felicista, il selvaggio vede Dio nel feticcio. Cioè tutto quello che abbiamo visto nella parte coloniale, Freud lo ripete pari pari. E poi qui arriva la terza critica, secondo me, va fatta a Freud. Adesso capite anche perché Freud ha detto che felicista è l'uomo e non la donna, perché per Freud, secondo Freud, il felicista è una persona che dal bambino ha scoperto drammaticamente l'assenza del bene e della madre. Quando scopre drammaticamente che la madre non ha il bene, il feticista ricerca un surrogato a questa assenza del bene materno, e il surrogato è il felice. Come vedete, anche da questa breve presentazione, il concetto di feticcio, maschile, pene, surrogato, è un paradigma molto chiaro, coerente nell'opera di Freud. Il problema è se funziona il paradigma. Secondo me non funziona. Io vi ho messo, vedete, due immagini di Rocky, veramente, in cui uno è un feticcio, vedete, prima è un feticcio che ha, così, vedete bene, il disegno del viso in alto, e il secondo, un'immagine ancora più logica, è presa da un'immagine pornografica forte, diciamo, del Giappone, in cui sembra quasi che questi giapponesi stiano cercando, fotografando il più vicino possibile la donna Buddha, se c'è o non c'è questo benedetto della donna madre, cioè se no, diciamo, questa è diciamo, la impressione su Freud. Quindi tre critiche su Freud, che solamente l'uomo sia felicista, poi abbiamo visto il perché è surrogato del bene, e questa dimensione di accettare ancora questa visione coloniale in cui ciò che è felice è il Dio del selvaggio. Se ci siete su tutto questo, il maschilismo e la visione coloniale di Cosenti è il terzo problema. Ma a mio avviso, adesso usare il termine, non so, bisogna stare attenti, vedere, però bisogna essere molto delicati, secondo me, con una persona che sa come Freud, ma il fatto che lui solamente nell'uomo e che la donna sia in qualche modo l'oggetto del desiderio, l'oggetto sia in quanto oggetto, diciamo, sia in quanto scarta, ecco, tutto questo con molta cautela, però voglio dire, perché poi non è solamente così, non è tanto così, però su questo aspetto del feticismo Freud apre certamente una riflessione sul concetto di perfezione, no? Cioè che sono elementi oggettuali che hanno una potente attrazione erotica. Noi possiamo dire, non so se siete d'accordo, ma che la dimensione del feticismo, anche in chiave erotica, attualmente non ha più identità sessuale. precise. Lei crede possibile sostenere che questo modello possa funzionare, ma certamente la proliferazione erotizzata di oggetti che sono soggetti appunto feticisti è un tratto caratteristico della contemporaneità. È caratteristico della contemporaneità. Lo potete verificare su decine di cose, lo vedremo anche nel corso del programma. Quindi non so se maschilismo il termine non è preciso perché sembrerebbe offensivo, ecco, chiamare la cosa, però che il figlio dei suoi tempi non riesce a cogliere probabilmente la complessità della figura della donna, almeno tutte le complessità, tanto che chi poteva capire almeno. Cioè, lei era veramente complicato, non era facile, lui è stato poi uno dei primi, il primo forse a cogliere in modo più avanzato la questione della sessualità. C'è un altro giallo che corre. Che prova a che fare con il sacro e non dei Bernini di Santa Teresa d'Avila. Avete visto, spero, conosciate, conoscete. Oh, facciamo finta che voi conosciate Santa Teresa d'Avila, che sta vicino da qui alla nostra facoltà, passando per via 20 settembre, che 20 settembre c'è una piccola chiesa, voi entrate in questa piccola chiesa e vi siete un mondo. Perché se non avete mai visto Santa Teresa, beh, è un'esperienza, vi piacerebbe che ci andaste, e vi piacerebbe di portarci costretti. Perché ci sono tanti modi, perché va vista proprio lì, perché chi la va a vedere, ci sono delle cose che adesso non vi dico, non ve lo so, ma è proprio il contesto che dà un senso profondamente felicista, un felicismo sacro, in cui Santa Teresa ha una visione, ha un'estasi. Noi abbiamo parlato della trance. L'estasi vuol dire l'uscire da sé, ecstasis. Questo è il senso dell'ecstasis, l'uscire da sé. E questo uscire da sé ha una mistica, che è una mistica, il termine è complicato, religiosa o sacrale, io dico che è sacra, perché la vedo così, in cui la dimensione erotica è fortissima. No, Santa Teresa si stringe un seno, c'è un angelo che ha una freccia puntata, potete immaginare dove, che sorride un po' per voi, insomma c'è tutta una serie di elementi in cui chiaramente l'estasi sacra di Santa Teresa include l'erotica, include l'erotica, lo sappiamo che include l'erotica. C'è quindi una cosa di un'erotica mistica non sessuale? Mi sto complicando ancora più la vita. C'è una possibilità di un'erotica mistica non sessuale? Allora, andate a vedere Santa Teresa, il 20 settembre, d'angolo c'è questa chiesa piccola, salite le scale, entrate dentro e vi troverete di fronte la risposta. Va bene? Domani tu farai una relazione su Santa Teresa, va bene? Allora, prima di passare a questa, ho un'idea che vi posso, che è stata proposta ieri. Vi faccio sentire adesso una musica, una seconda musica, va bene? Allora, questa seconda musica ve la presento più in dettaglio di quella di ieri, così vi rilassate anche. Perché ha a che fare con il cuore in tenebra. Allora, ho più volte parlato del cuore di tenebra, abbiamo parlato dei selvaggi, cosiddetti ovviamente, del fiume Congo, degli africani che stavano lì in condizione di schiavitù in passato, per fortuna, e della musica, dell'importanza della musica africana. Bene, in questo disco c'è una delle esperienze insomma, più significative dal punto di vista dell'antropologia della musica, che è la seconda. Vi farò ascoltare solamente un brano di un gruppo, di una cultura che si chiama Aka, che probabilmente gli Aka non c'è nessuno li conosce, non so se qualcuno li conosce, ma li conosciamo come Pigmei. Solo che Pigmei è il nome eurocentrico, un po' razzista, con cui l'Occidente ha definito e continua a definire queste persone. Loro non si chiamano pigmei. Allora, se un pigmeo cosiddetto non si chiamava pigmeo, perché noi continuiamo a chiamarlo pigmeo? Questa è la storia, è molto semplice questa. Allora, vi ho detto più volte che il modo migliore è chiamarlo con il nome con cui loro si chiamano. Si chiamano Aka. E noi li chiamiamo Aka. Non è la cosa più normale? Li dobbiamo chiamare africani, neri, gialli, bianchi e bambini? Li chiamiamo Aka, perché sono esseri umani nel mondo, normalmente si chiamano. Questi Aka hanno elaborato una delle musiche più complesse, perché la loro musica, poi la ascolterete, è fatta da una autonomia relativa e soggettiva dei vari strumenti, anche delle varie voci. Per cui iniziano strumento che ha una sua, un suo sviluppo e una sua autonomia. Quando subentra un altro strumento, ha una sua visione, un suo ritmo, un'altra sua autonomia. E che disegno? Ne possono entrare tantissimi strumenti voce all'interno di questo concerto e la polifonia di questa musica è una polifonia che ha autonomia e dissonanza, che è enorme ricchezza. Ogni solista è un soggetto, ogni solista aga è un soggetto, ogni solista aga ha la sua autonomia e nella sua autonomia si intreccia con gli altri suoni in un modo che è sorprendente, perché non è predeterminato, capite? Vi è una casualità, c'è un termine che a me piace di più, vi è una spontaneità organizzata nella quale le note si intrecciano. Allora, se voi vi abituate a cogliere questo aspetto che è profondamente, scusate se lo dico, è politico e antropologico, perché c'è l'autonomia del soggetto e dello strumento. Non c'è l'ordine tonale degli strumenti e c'è una spontaneità attraverso cui le singole parti si incrociano. Si incrociano e poi se ne vanno. Quindi è fortemente, uso un termine un po' così, libertaria questa musica. Una cosa libertaria fonda sul processo di autonomia liberazionista, diciamo forsemente. Questo tipo di musica ha influenzato moltissimo due musicisti importanti che sono diversi. Uno è Steve Reich, di cui vi ho già parlato. Steve Reich è un Philip Glass, è un cosiddetto musicista minimalista, quindi è un musicista dell'area jazz e del seguito. Il terzo musicista, non so se lo conoscete, è un inglese che è morto da poco, si chiama Ligeti, che forse non conoscete così, ma avete visto sicuramente Odissea nello spazio, grande lei che normalmente non esiste. Allora, la musica dell'Odissea nello spazio, se avete presente, è fatta da Ligeti, questa musica spaziale. È un compositore di musica contemporanea, diciamo di matrice classica, diciamo così, no? Che a un certo punto della sua vita, stando in California, vicino a dove stava Benson, tra l'altro, ha scoperto gli Aga. Per cui è stato fatto questo seminario interessantissimo per chiunque ami e voglia affrontare la musica veramente in un senso di attraversamento, in cui Yaga, cultura africana del centro Africa, Steve Reich, newyorkese che fa musica minimalista, e Ligeti, ungherese che fa musica, diciamo, classica, si relazionano e in cui il secondo e il terzo devono molto della loro ispirazione agli Aga. Allora, un suggerimento che faccio è chi vuole fare musica di ascoltare musica di questo tipo questa degli Aga. Adesso 5 minuti, 5 minuti, cercherò di rendermi questa musica, se non ci riesco a tenere la Fate attenzione, come dicevo, è la traccia numero 3. succede? Ci sono dei concetti Allora sull'identità vedremo successivamente il termine che vi presenterò, mi pare che l'ho già accennato, adesso non ricordo perfettamente, è multilivo. Abbiamo parlato di multilivo e multilivo, queste sono nuove soggettività che hanno questa molteplicità di i al proprio interno. Videocarne è un termine preso da Cronenberg, no? Il figlio di Videodrome, che vi dicevo, lo dico più volte, è probabilmente uno dei testi che maggiormente anticipano un'analisi complessa sul rapporto tra video, computer e corpo. Quindi io ho scritto videocarne perché è la videocarne che è utilizzata da Videodrome, anche il titolo di Videodrome, però il Videodrome è il video, non è solamente il video della televisione, è anche il video di cyberspace che sta iniziando, qui era 1983, quindi sono un grande anticipo. Quindi questo video, questa videocarne ha una biografia, questa abbiamo visto, una biologia, abbiamo visto anche transorganica, postumano, sono tutti termini che abbiamo già visto, e che si conclude tutta questa prima introduzione su circuiti visuali, spero che abbiamo già in parte anticipato, perché compreso, incrociano verificazione, emersione e medesimazione. Quindi contengono elementi di desiderio e di dominio così intrecciati che è difficile a volte dipanare, sciogliere, diciamo, per gli studenti spagnoli e altre persone. Questa distinzione di alienazione e medesimazione è analoga a questa possibilità di distinzione tra soggetto e oggetto, e ambedue sono distinzioni qualiste che non funzionano più col fetichismo, perché il fetichismo ha questo potere di mettere insieme, è una trama che connette alienazione e immedesimazione. Qui c'è un piccolo gioco. Ho potuto mettere tre titoli di libri che a me piacciono particolarmente, mi piacciono sia i titoli che non i libri, però i titoli sono anche molto belli, mi hanno parlato in parte, no? Trigeme sacro, oscuro ma il cuore di tenebra, a che fare con la dimensione sacrale, il feticismo una merce, ma la rivoluzione, cioè del male Baudelaire, quindi che per primo coglie questo aspetto tra desiderio e città. E quindi il feticismo che è perturbante, che ho messo un testo di Barrocks, il passo nudo, David Lunch, un altro testo bello come titolo, passo nudo, molto educativo naturalmente, anche il titolo naturalmente è molto interessante, da cui lo stesso Cronenberg ha fatto un film solo il meno significativo, meno bello, ma ha conseguenze interessanti. Fetichismo visuale, quindi se questi tre si riferiscono, questi tre classici, diciamo, come l'erba, come il male, il pasto nudo, il fetichismo visuale intreccia il sacro, il gigante, il perturbante. E la relazione con l'occhio, l'erottica, ho messo questa immagine, sono abbastanza nuova. Ecco, queste sono immagini classiche di Videodrome, c'è la tela della televisione che fuoriesce o si espande, Max che entra dentro una bocca, insomma, io spero che lo vediamo questo film che è importante. Entriamo al punto 2, la stupida praticità. Diciamo, questo primo concetto, allora, questo è già un cavallo, lo riassumo, lo ripresento. Il fetichismo visuale transita il rapporto del nuovo. Quindi questo transitare il rapporto del nuovo poi si focalizza in architetture, che dicevo, che l'ho detto prima, però è la relazione corpo-metropoli per me fondamentale. Qui entriamo allora dentro il concetto di stupore, che vediamo se è stato messo bene. Il concetto di stupore. Allora, il felicismo visuale, questo per me è un altro aspetto che ricordo che avevo accennato all'inizio, però il felicismo, l'etnografia, questo tipo di disciplina polidisciplinata non può fare ricerca rimanendo a distanza. Il problema di quando si fa una ricerca etnografica e in particolare sul felicismo, questa distanza viene sempre più meno. In questo senso il rischio di entrare, di penetrare, di farsi penetrare dai felicisti è un rischio fondamentale. È come se il ricercatore, e spero anche lo studente, accetti di rischiare di avere questa relazione penetrativa con i felicisti visuali. E infine lo stupore, parola per me è abbastanza chiara, che adesso affronteremo di vario nel punto. Si vede? Anche in fondo si vede? No? Come si fa? Se lo faccio piano si vede meno. Perché appunto io mi colgo grosso modo come una sorta di spugna, favorisce l'ingresso di fluidi nel mio corpo, io, e che questo favorire l'ingresso di fluidi per il fatto che io non so che cosa sono, mi sono sconosciuti, ma che in quanto sconosciuti io li desidero, perché nello sconosciuto, in qualcosa che io non conosco ma appartiene alla mia esperienza, io vivo in un contesto, questo è changing opinion, se connettete le due cose. Il cambiare opinione sta nel fatto che io mi posiziono in una dimensione tutta aperta, porosa, spugnosa, in questo attimo prima. Perché è l'attimo prima che è fondamentale, perché è l'attimo che è un posizionamento di me prima che arrivi questo qualche cosa. Io non so cosa sia. Non posso saperlo, se lo sapessi sarebbe un gioco toccato. Io non posso sapere che cosa sta per arrivare, però questo qualche cosa che sta per arrivare, che mi è sconosciuto appunto, è la cosa che io massimamente desidero, perché è quella cosa che mi fa cambiare, che mi fa mutare, che mi fa attraversare la porosità, perché la mia porosità, il mio essere poroso, spugnoso, è tale, ha senso, ha significato, e devo dire anche desiderio, in quanto sono attraversato, non in quanto rimango una secca spugna al sole che è buona nulla, che è la dimensione di questa umidità trans, stavo dicendo transoggettiva, questa porosità transoggettiva è disposta su questo attimo prima. A me questa storia dell'attimo prima, scusate se ve lo dico, è una storia che mi è arrivata vedendo anche un film e leggendo un saggio di Bruno. Il film si chiama La pianista, non so se qualcuno l'ha visto. La pianista non ha visto nessuno? Oh, ma l'Argentina, ma... cioè, l'Argentina è la più grande, mi dispiace, non fa l'esame, passa direttamente al sovrintendente, va bene? Basta che cambia mezzo del sole, va bene? Allora, La pianista è un film straordinario, molto molto bello, mettendolo nella nostra maledetta filmografia, in cui a un certo punto la storia di questa grande pianista, che può anche vedere piena di elementi felicisti, non casualmente è una donna ed è felicista, quindi avete forti elementi felicisti in questa donna, che cita a un certo punto una frase di Adorno su Schumann, scusate, adesso le piccole cose, però non è così. Adorno dice che Schumann ha scritto una sua opera l'attimo prima che diventasse folle. Non so se la storia di Schumann, siamo a casa, grandi musicisti romanti, Schumann a un certo punto entra in una crisi psichica e dove è composto delle musiche straordinarie rimane in un contesto che possiamo dire di follia. Il problema, dice Adorno, che nell'attimo prima di diventare folle, in quell'attimo prima Schumann compone un'opera straordinaria. Allora in questo film, che è proprio un altro libro molto bello, in questa analisi, questo libro, questo film, la scelta non solo della pianista, ma la scelta secondo me di una persona che voglia stare nei flussi attuali, deve vivere nell'attimo prima, sperando che l'attimo prima non sia l'attimo della follia successiva, ma sia l'attimo prima di una nuova visione del mondo. Schumann è diventato quello che è diventato, purtroppo. Ma l'attimo prima favorisce un momento, quando sta per arrivare qualche cosa che non sappiamo, potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere una nuova razionalità, potrebbe essere una nuova soluzione alla sublimazione non reversiva. Perché no? Potrebbe essere una sublimazione non reversiva. E in quell'attimo prima io sto in una posizione aperta. Aperta a uno sconosciuto, a un qualcosa di ignoto, veramente, perché lo stupore, quanto noi abbiamo l'attimo prima dello stupore, però il momento iniziale, non so se voi, lo stupore è l'apertura del corpo, il corpo si apre, no? La bocca si apre, gli occhi si aprono, i cuori si aprono, tutto si apre. No, nello stupore è come se noi ci aprissimo con tutti i nostri organi a qualcosa che sta per attirarci. In questo senso lo stupore credo che sia una dimensione profondamente, come posso dire, se la ricerca è la ricerca di una nuova razionalità, l'università cerca di trovare nuovi sentieri a nuove razionalità, nuove logiche, credo che la disposizione allo stupore favorisca queste logiche sensoriali. Lo stupore è una sensorialità multilogica, diciamo così, una sensorialità multilogica, una sensorialità che multisensorialità, anche questa, perché anche la sensorialità è multipla, e io mi apro porosamente con la bocca, con gli occhi, con le orecchie, no? Tutti i miei sensi si aprono perché sta a praticare qualcosa, non si sente. Si sente che sta per arrivare qualcosa e io non lo so, ma lo desidero. Allora, in questo senso, un Heimlich, nel significato di Freud, diventa un'enorme potenzialità quotidiana. Capite? Perché un Heimlich, il perturbante, è parte, è come se io stessi in contattesa con una stupita soggettività, una stupita soggettività, io stessi in attesa di un perturbante. È come se io desiderassi essere perturbato, è come se io non ce la facessi a rimanere sempre in una condizione, diciamo, di un'ora di attesa, insomma di tranquillità isomorfa. No? La tranquillità isomorfa può essere bella per un po', diciamo, sì, ma almeno se personalmente mi dà poi un senso di inquietudine. Questa bellissima parola portoghese, desassossego, non mi domando se avete letto il libro di inquietudine di Pessoa, però insomma il concetto di desassossego, l'inquietudine, è una profonda visione, non solamente letterale, ecco, di questo grande scrittore, questa inquietudine costituisce, diciamo così, la dimensione attrattiva dello stupore. E allora, se avete seguito questo mio, diciamo così, questo aspetto un po', lo stupore garantisce il desiderio possibile. Se la condizione dello stupore è questa apertura verso qualcosa di sconosciuto e desiderato, un perturbante, perché il perturbante, possiamo dirlo, è lo sconosciuto desiderato, è il sublimato non represso, diciamo la sublimazione non repressiva, ecco, qui lo stupore è come se fosse in attesa di questo desiderio possibile, dei desideri possibili, perché proprio questi desideri possibili, incontrandomi, venendomi incontro io in condizione dolorosa, sono in grado di ricevermi. Se sto in una condizione diversa, o sono diffidente, o sono duro, o sono rinchiuso, o sono distratto, o sono corazzato, o sono chissà che, ho difficoltà di vedere che il desiderio mi sta passando vicino. E se io sono doloroso, il desiderio lo vede, mi sente, entra. Se io sono diffidente, sono preconcettuale, preconcettuoso, corazzato, il desiderio si fa. Allora, il concetto che quello che ancora non è, il non essere ancora, che è una bella espressione anche in filosofia, il non essere ancora, a me piace moltissimo questa espressione, non essere ancora, perché non essere ancora stabilisce, che è poi lo stupore, stabilisce appunto l'attesa verso qualcosa che ancora non è, ma che potrebbe essere. Non è detto che sarà, non deve essere, attenzione, non è il dovere che qui entra in campo, è una potenzialità, è una potenzialità che non essere ancora posizione il soggetto prosamente, perché il desiderio possibile, lo sconosciuto, il perturbante, il desiderio perturbativo, possiamo anche dire così, sta per arrivare. Allora la mia porosità favorisce il punto. Naturalmente questo è il rischio, perché come ho detto, la dimensione dello stupore è a rischio, è rischiosa, non è tranquilla, perché può arrivare di tutto, può arrivare anche la follia, può arrivare anche una cosa appunto, non voglio dire dissolutiva, insomma, antagonistica, conflittuale, diciamo così. Ma il problema è che io allora personalmente vedo così. Non dobbiamo rinunciare assolutamente a un'apertura porosa all'altro in nome dei pericoli possibili. Non dobbiamo rinunciare all'apertura porosa all'altro in nome dei pericoli possibili, perché questo ci mette dentro, adesso vi faccio una caduta molto banale, a quella che è una delle infelici condizioni, specialmente in Italia, non solo in Italia, no? È certo che l'Italia sia ormai caduta in preda a una paura per tutto quanto sta per accadere, è veramente qualcosa su cui riflettere. Perché c'è tutta questa paura? È una cosa vera, è costruita, è falsa, è massimediata, tutto quello che volete, ma in ogni caso uno studente di scienze della comunicazione, sensibile all'antropologia, si interroga del perché la paura è diventata la chiave della relazione tra esseri umani in Italia. Come se non si possa non parlare di paura, la paura è la chiave di lettura, tutto accade perché c'è la paura. E la paura è diventata, diciamo, una chiave totalmente politica del gestire una cosa pubblica, più o meno una cosa pubblica. Allora, a mio avviso, prego. Scusi, a parte perché la paura nasce dall'esperienza. La paura nasce dall'esperienza, certo, ma anche il desiderio. L'esperienza, per fortuna, non è data solamente dalla paura. L'esperienza è una delle cose più belle che noi possiamo fare, e l'esperienza ci può dare elementi paurosi, terrificanti, tragici, straordinari, bellissimi, seduttivi. Perché si sceglie in questo momento esperienza quale paura? Come hai detto te, mannaggia te. Perché esperienza è una paura adesso in Italia, cioè, ripeto, non solo in Italia, certo in Italia, ho letto delle statistiche, magari non sono vere, ma insomma, basta, la fase più orrenda che si possa dire, basta parlare con la gente, no? Si sente questa paura. No, allora l'esperienza è uguale a paura, come vi ho detto. È così? Allora, mettiamo anche che sia così. Il problema per me è che questa relazione, esperienza-paura, questa relazione esperienza-paura deriva dal fatto questa relazione esperienza-paura deriva dal fatto che la tendenza allo stupore si è irrigidita. Chi è che si meraviglia? Lo stupore, diciamo così, è il figlio della meraviglia, anzi la maraviglia, come si chiama. La meraviglia è vicina allo stupore. Mi piace meno meraviglia, però certamente lo stupore sta per meravigliarsi. Allora l'esperienza è anche uno stupore che è di meraviglia, no? Però mi pare che questa dimensione, esperienza aperta a uno stupore che può produrre meraviglia, ecco, questa esperienza è attualmente in fase di essiccazione, si è essiccata, si è irrigidita. Ecco, c'è un irrigidimento verso una condizione porosa dello stupore. Perché? Sarà che in questo limite io ho una difficoltà a fare ricerca, lo dico molto complesso, non chiamo niente, non è niente. Sarà che in questo limite ho una difficoltà a fare ricerca, questo è il problema, più posto, diciamo, anche l'altro, ma sarà che fare ricerca significa andare oltre la relazione esperienza paura e stabilire, non ho detto ristabilire, attenzione, stabilire connessioni tra l'attimo prima e una meraviglia potenziale, che è quella dei noi sapere, è quella dei noi sapere. Sarà che i nostri atleti sono un po' bloccati da noi, dalle nostre università, stanno un po' in crisi. Che dico questo? Ieri, cioè una settimana fa, ho avuto una studentessa, e ha detto che voleva fare una tesi di ricerca in Thailandia, sulla trans in Thailandia. E io ho detto, va bene, d'accordo, ho parlato del progetto, e lei ho detto, sì, sai, professor, però io andare in Thailandia con un po' di difficoltà economica, mi viaggio in contatto con tutto, però non ho dei finanziamenti. Allora io gli ho detto, ascolta, tu forse lo sai, e non so se lo sapete voi, ma la Sapienza, non la facoltà, la Sapienza offre una serie di borse di studio per studenti della nostra università per fare ricerca all'estero. Allora, questa mattina è andata la mia studentessa e gli ha detto, professore, ho vinto la borsa. Sa perché? Vediamo se tu vedi. Era l'unica. Cioè, in tutti gli studenti di scienza della comunicazione che ci sono, quanti siete? 15.000. Una ha presentato domanda per avere una borsa per andare all'estero. 2.900 e su lunghe non si trova. Allora questo che vuol dire? Che vuol dire? Questo qua è il nostro studioso. Abbiamo riflettuto in facoltà, eravamo con i collaboratori, c'erano anche i studenti, c'era un'atmosfera un po' effervescente e insomma c'erano 4 studenti, di cui 3 già laureati, 3 avevano avuto tutte per la borsa all'estero. Cioè, evidentemente, l'antropologia sembra l'unica disciplina di cui i laureati possono avere fondi per andare a fare ricerca all'estero. 3 erano coppie, erano 5, 4 su 5 hanno avuto dai 2.500 ai 3.000 euro per andare all'estero. Capite? Questo secondo me implica una scelta, secondo me è una scelta anche universitaria, con tutta sincerità, vi è un tipo di impostazione, non sto trasgredendo, della nostra facoltà, forse della nostra Atenea, forse dell'università, non lo so, ha una chiusura endogamica. Io sento che le nostre università, le nostre facoltà si stanno un po' chiudendo, stanno diventando un po' endogamiche, rinchiuse in se stesse. Per questo gli studenti Erasmus sono una delizia, diciamo, e viva lo studente Erasmus, e viva gli studenti che vengono anche da fuori con Erasmus, i free mover, perché questa dimensione ci fa felicemente insomma, assumere queste differenze e poi probabilmente ci fa porre questo problema e una volta che abbiamo un problema, non dico che abbiamo una soluzione, lo possiamo affrontare. Allora, la domanda che io vi faccio qui, non voglio la risposta, che la voglio adesso, è voi siete disponibili a fare delle ricerche in cui non rimanete appunto in Italia, a Roma, o nei vostri paesi, nelle vostre città, ma accettate, anzi desiderate di andare fuori e di collocarvi in una posizione dell'attimo prima, di uno stupore dell'attimo prima, che questo è il punto. Questo è il punto. Gli studenti, i miei studenti, allora i laureati che hanno deciso, erano persone, studenti che hanno deciso, diciamo, di stupirsi. Allora, riflettete su questo, e quale rapporto stabilisce la nostra facoltà, con la nostra università, con un atteggiamento del nostro momento. pubblicità che secondo me mi ha dato sempre un senso, come dire, anche un po' di felicità, adesso mi dà un po' di far ridere, mi dà una cosa, un senso di, come, ci sono le barzellette non aggressive, io odio le barzellette, non facciamo una barzelletta, un racconto, una storia, insomma, che c'è un senso di umorismo non aggressivo, non stigmatizzante. Come, prima di tutto, allora, come studenti di comunicazione dovete sapere che questa è una pubblicità, un'immagine che è possibile perché c'è il digitale. Conoscete i pixel e conoscete il morphing. È il morphing che permette di fare questo tipo di immagine. Prima si faceva in un altro modo, si faceva con un tipo di assemblaggio che era un cut-up, distruggere una parola, mi spiace. I francesi facevano lì il montaggio. Non il montaggio, però. I surrealisti facevano collage. Io ho cambiato montaggio, collage, che è una grande dimensione surrealista, perché nel collage tu metti insieme due immagini incongrue, non hanno nessuna relazione una con l'altra. Da questa non relazione si sviluppano significati infiniti. Questa è la genesi del surrealismo. Da questa connessione tra due voci, tra loro assolutamente incongrui, i significati sono infiniti. E il collage era possibile perché? Perché insieme a due fotografie incollate, una collata, incollate. Però la distinzione rimaneva lì tra una immagine da una e l'altra. Poi un po' si sono modificate le cose, ma potete cercare, però diciamo che con il digitale, con il pixel che diventa ancora più forte, perché con i pixel digitali l'occhio entra dentro gli ultimi pixel dell'occhio, entra dentro i primi i pixel delle labbra. E in questo modo il risultato, l'effetto, è un effetto sorprendente, come se fosse veramente una bocca occhio. Quindi la riflessione che prima luogo voi dovete avere naturalmente è conoscere il collage, a differenza di quello che diceva la parola, sapere cos'è il collage, andare a vedere i surrealisti quello che hanno fatto con il collage, perché hanno fatto opere fondamentali, molta nuova visione. Non solamente occidentale, cioè nasce, si libera grazie al collage, no? L'altro grande surrealista, Buñuel, lo spagnolo Buñuel, lo diamo in omaggio ai nostri amici spagnoli, Buñuel ha scritto e ha fatto delle cose, ma il collage è veramente straordinario, Questo, il cinema di Buñuel è veramente uno dei livelli più alti del cinema di Buñuel. Questa era la capacità di questa arte, sia di immagine che di cinema. La pubblicità, adesso arriva la pubblicità, e la pubblicità con queste immagini che ci dice? Secondo me, oltre al morfing, è come se le cose che dicevo sulla multisensorialità, sul fatto che i sensi, no, la scuola abbiamo appreso che i sensi sono cinque, no? Ma che i sensi sono cinque, uno diviso dall'altro, a me non va in vita, ma come può funzionare che la vista è totalmente separata dallo stesso udito che io sto dentro le mie parole, non sto guardando anche. Insomma, le cose sono più intrecciate, e sono molto utili intrecciate. Allora, in questa immagine, per quanto banale, si esprime con una certa stupore il fatto che si possa guardare con le labbra così come mangiare con gli occhi, come spesso anche si dice con una metafora della bocca. Allora, insomma, questa immagine a me piace perché mescola i sensi. I sensi non sono finti, ma in questa immagine i sensi si mescolano. E il rimescolamento sensoriale dove va a finire? Queste immagini abbiamo già parlato, vi avevo parlato della mortacchia, della trasformazione, della biografia della mortacchia, una delle prime lezioni. Ricordate? L'immagine non era rivista? Allora, bene. Allora, la mortacchia, questa benedetta mortacchia che entriamo dentro certi aspetti del feticismo visuale, naturalmente. Allora, qui abbiamo già due immagini significative. La prima è, abbiamo già fatto la storia della mortacchia, ricordate? Nella visione del colonialismo, una visione dell'inquisizione, i cosiddetti schiavi, io aggiungo sempre cosiddetti nella parola schiavo, perché per me usare lo schiavo come se fosse naturale che una persona fosse schiavo non riesco a accettarlo. Per cui, sono riesco a dire gli schiavi in generale, mi piace dire cosiddetti schiavi, perché sono cosiddetti schiavi, sono stati tentativi di ridurre gli esseri umani, alcuni esseri umani a schiavi, per questo anzitutto mi dà un senso di resistenza a questa violenza che sono commessa. Allora, nelle condizioni di questi esseri cosiddetti schiavi veniva messa appunto la mortacchia perché come gli animali, anche gli animali addomesticati in una mortacchia, no? Il bue, la vacca, in una mortacchia. Perché come un animale addomesticato sta buono, tranquillo e non parla. No? Il linguaggio della parola non appartiene allo schiavo. E allo stesso modo il linguaggio, la parola non appartiene all'eretico. L'eretico non ha diritto di parola, quindi deve essere condannato a loro mortacchia e crociato. La domanda che vi faccio, così come l'ho fatta per decine, ma perché adesso la mortacchia diventa uno stile di un desiderio possibile? Perché la mortacchia diventa un desiderio possibile, un feticismo visuale, non solo che assorbito come una moda, diventa l'espressione di un desiderio possibile. Perché che cosa sta accadendo all'interno delle relazioni tra esseri umani fondamentali? E perché l'opera d'arte più cara del mondo attuale, lo sapete chi è questa a sinistra? È considerata l'opera d'arte più cara del mondo attuale, è fatta tutta di domande. È un teschio strapieno di domande. È caro, è molto caro, è l'opera più cara che esista attualmente nel mercato dell'arte contemporanea. Però perché abbiamo due immagini che in qualche modo hanno un'affinità, almeno io mi è parso di cogliere un'affinità tra questa fotografia con questo sguardo, vedete, uno sguardo, come dire, passivo, quasi neutro, e l'altro sguardo, lo sguardo dell'opera d'arte, che anche quello è passivo, è svuotato, è vuoto. Allora, quale relazione c'è tra un'opera d'arte a forma di teschio diamantato, un teschio diamantato? Qual è il senso? Che cosa si vuol dire con questo? Tra l'altro, sul teschio, e ciò ho mostrato un teschio, lo ricordate? Il teschio Corotolo, lo ricordate? Allora, già in quel teschio Corotolo, vi ho detto, attenzione, è un teschio, ma non è più un teschio, è un teschio che sta sta transitando da una dimensione empirica a un'altra sacrale. Sta diventando questo uccello mitico del coro, rara, e in quanto tale diventa un essere mitico, di fondazione della cultura e cultura. Ma ci sono molti teschi nella storia dell'arte. Alcuni storici dell'arte hanno detto che il primo materiale per fare un'opera d'arte sarà il teschio. Il teschio è indistruttibile e sul teschio si sono costruite opere, molte opere. Abbiamo molti prodotti, diciamo di arte, in termini complicati, fatti con teschio. Uno dei più celebri sta a Firenze, agli Uffizi, era il cosiddetto teschio di Montezuma, quello che era Montezuma. Anche questo è tempestato di pietre preziose. Ci sono teschi con ossa che attraversano il teschio e imprimono una forza espressiva violenta. Ci sono teschi, non so se avete presente, nel museo di Atene, ci sono le famose falsi agamenti di d'oro, avete presente? Non ci fate vedere. Allora, a Atene c'è questo falso agamenti che ha i lineamenti, diciamo, per virgolette di agamenti, non è vero, però in Grecia, nella Grecia antica, quando moriva una persona importante, un re, e la carne si stava per eliminare, gli si metteva una sfoglia d'oro sopra, si lavorava, un artista la lavorava, imprimeva la fisionomia di questo re e lo trasformava in un importante. Per cui queste lamine d'oro appunto avevano il potere di trasformare il morto in eterno. Thank you. questo lo deve conoscere tutti quanti, chi è? Metropolis di Pezzavante, lei si chiama Maria, è l'automa, e il riferimento di Pezzavante all'automa, chi è se non Olimpia? Non mi sapete? L'Olimpia, questa donna bambola, questa bambola donna di Hoffman, influenza Pezzavante e fa un capolavoro assoluto nella storia del cinema, quasi irripetibile. Metropolis è veramente uno dei capolavori massimi nella storia del cinema. Mi piacerebbe mostrarvi alcune scene, se qualcuno ce l'hai in digitale, non si può applicare, qualcuno ce l'hai tu? C'hai tu? Ah, questo lo porti uno dei due? C'è la tua, c'è la tua scheda. Ma il quarto giorno che facciamo un esperimento lo faccio una volta sola, facciamo un altro esperimento, va bene? Allora, qui ci sono due bambini, no? la bambina di traverso, si sa un po' l'età, molto un po' orientata, si passina, e questo bambino sta veramente in una condizione di stupore, si sta grattando proprio il mento come una persona, un bambino che si sta stupendo, perché si sta stupendo, stupendo di fronte a qualcosa di enormemente significativo. Allora, il mio stupore, la mia intervenzione di questo stupore, questo atteggiamento stupito del bambino, notate anche come sono le cartelle in Giappone, tutto quanto, eccetera, è che si domanda, cosa che ci siamo domandati con tutti quanti noi, no? Ma sarà che io sono nato da una pancia come questa qua? Sarà che mia madre non era aveva una pancia come questa e io da questa sono nato? Ma poi, osservando meglio la fotografia, io ho visto che questa curva, appunto, della pancia di Britney è troppo affine a quest'altra curva, a quest'altra pancia, che è la pancia della R. Non solo, diciamo meglio, che vi è una stretta affinità tra la curva, la curvosità della pancia di Britney e la curvosità della R finale di Harper Bazaar. E poi, guardando sempre più in dettaglio, quindi le gambe di lei sono, come si dice, una sovrallata, accavallata. Ma e vedete che questa gamba accavallata è veramente uguale a questa R accavallata. Quindi la mia lettura è che anche la scelta di questa R, la R incorpora, trasfigura, possiamo anche dire ulteriormente felicizza il corpo di Britney Spears. E allora la domanda del bambino, e la mia con lui, è: ma quante madri ho? Sarà che io sono nato da una madre umana, o sarà che io sono nato da una madre umana, ma anche da un'altra madre post-umana? E che questa madre post-umana è questa R della pubblicità visuale. Detto quindi in riassunto, io ho due madri. Ho la madre che favorisce il mio sviluppo inculturativo fino a un certo punto, e che lei. Ho un'altra madre che influisce un sviluppo inculturativo senza limiti,